Ad alta voce, Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser, traduzione di Emilio Castellani. Quinta puntata. Finalmente le mie fotografie sono pronte. Guardo verso il mondo con un'aria estremamente energica in questo ritratto, davvero assai riuscito. Kraus, per farmi arrabbiare, dice che sembro un ebreo. Finalmente ride un po' anche lui. Kraus, gli dico io, ti prego rifletti. Anche gli ebrei sono uomini. Litighiamo sul valore o non valore degli ebrei e questo ci diverte straordinariamente. Mi stupisco della bontà delle sue opinioni. Secondo lui, gli ebrei hanno loro tutto il denaro. Io annuisco, sono d'accordo e dico: è il denaro che fa diventare ebrei gli uomini. Un ebreo povero non è un ebreo. E i cristiani ricchi, tanti saluti, quelli sono i peggiori ebrei. Lui annuisce. Oh, finalmente ho strappato una volta la sua approvazione. Ma subito si arrabbia di nuovo e mi dice con gran serietà: smettila con queste chiacchiere, che storie sono queste, ebrei e cristiani? Sono tutte fandonie, ci sono uomini da bene e uomini dissoluti, questo è tutto. E tu, Jacob, cosa pensi? A che specie appartieni? E così continuiamo a conversare a lungo. Oh, lo so, a Kraus piace molto discorrere con me. Che animo buono, fine. Solo che non gli va di ammetterlo, come mi piacciono i tipi poco inclini a farsi confessioni. Kraus ha carattere e lo si sente ben chiaro. Ho scritto poi il mio curriculum, ma subito l'ho strappato. Ieri la signorina Beniamenta mi ammonì di essere più attento e ubbidiente. Non so figurarmi niente di più bello dell'ubbidienza e dell'attenzione, eppure, strano a dirsi, mi sgusciano di mano. Sono virtuoso in fantasia, ma quando è il momento di mettere in pratica la virtù, cosa succede? Già, è vero, allora è tutto diverso. Allora si cede, allora si è svogliati. Del resto sono maleducato. Mi esalto alle idee di cavalleria e di gentilezza, ma quando si tratta di precedere di corsa la maestra per tenerle rispettosamente aperta la porta, chi è? Lo zotticone che se ne resta seduto al tavolo? E chi invece balza come il vento per dar prova di cortesia? Toh, Kraus. Kraus è cavaliere da capo a piedi. La sua epoca giusta sarebbe il Medioevo, ed è un gran peccato che non abbia a disposizione un XII secolo. È la fedeltà, lo zelo, l'altruismo discreto e servizievole in persona. Sulle donne non dà alcun giudizio, si limita a venerarle. Chi raccoglie da terra gli oggetti lasciati cadere e li porge alla signorina con una sveltezza da scoiattolo? Chi parte d'un balzo da casa per fare commissioni? Chi porta la borsa della spesa seguendo la maestra? Chi fa pulizia in cucina e sulle scale senza che nessuno gliel'abbia comandato? Chi fa tutto questo e non domanda un grazie? Chi è così stupendamente, così potentemente lieto dentro di sé? Qual è il suo nome? Ah, io lo so. A volte vorrei che mi picchiasse questo Kraus, ma uomini come lui, come potrebbero mai picchiare? Kraus vuole solo il giusto, il bene. Non si esagera dicendo così. Non ha mai cattivi propositi. I suoi occhi sono spaventosamente buoni. Che cosa può volere un tale essere in un mondo come questo, preordinato e ammaestrato alla frase, alla bugia, alla vanità? Quando si vede Kraus, non si può fare a meno di risentire come sia insalvabilmente perduta la modestia nel mondo. Ho venduto il mio orologio per potermi comprare del tabacco da sigarette. Senza orologio posso vivere, senza tabacco no. Scandaloso, ma non c'è rimedio. Bisogna che in qualche modo riesca a trovare un po' di soldi, altrimenti tra poco non avrò più biancheria pulita. Avere dei colletti puliti è per me una necessità. La felicità di un uomo non dipende da cose di questo genere. Eppure ne dipende. Felicità? No. Ma bisogna essere in ordine. La pulizia è già di per sé una felicità. Sto parlando a vanvera. Come odio tutti questi termini calzanti. Oggi la signorina ha pianto. Perché? Tutto a un tratto. Nel bel mezzo della lezione le sono sgorgate le lacrime dagli occhi. È un fatto che mi commuove stranamente. Ad ogni modo, voglio tenere gli occhi ben aperti. Per me è un divertimento stare in ascolto di qualcosa che non si vuol far sentire. Sto attento e così la vita diventa bella. Perché se non si è costretti a stare attenti, si può dire che non ci sia neanche vita. È chiaro, la signorina Beniamenta ha qualche dispiacere e deve trattarsi di un dispiacere grave, dato che la nostra maestra di solito sa dominarsi assai bene. Ho bisogno di soldi. D'altronde, adesso ho scritto il mio curriculum. Eccolo. Curriculum. Il sottoscritto Jacob von Gunten, figlio di bennati genitori, nato il giorno tale, cresciuto nel tale e tal luogo, è entrato come allievo nell'Istituto Beniamenta per impadronirsi delle poche nozioni necessarie ad essere assunto in un servizio qualsiasi. Il medesimo non nutre alcuna speranza nei confronti della vita. Si augura di essere trattato con severità, così da poter apprendere che cosa significa dover fare appello a tutte le proprie forze. Jacob von Gunten non fa grandi promesse, ma si propone di condursi in maniera lodevole e retta. I von Gunten sono un'antica schiatta. Nei tempi andati essi furono guerrieri, ma calmatasi la smania bellicosa, oggi sono alti consiglieri e commercianti e l'ultimo rampollo della casata, oggetto del presente rapporto, ha deciso di ripudiare apertamente ogni tradizione di fierezza. Egli vuole che sia la vita a educarlo, non già dei principi ereditari o comunque aristocratici. Senza dubbio è orgoglioso, poiché gli è impossibile rinnegare la sua innata natura, ma ha dell'orgoglio un concetto interamente nuovo, rispondente in certo senso all'epoca in cui vive. Spera di essere moderno e almeno in parte adatto a render servizio e di non apparire totalmente sciocco e disutile, ma è una bugia. Non lo spera soltanto, lo afferma e lo sa. Il suo umore è caparbio, in lui si agitano ancora un po' gli spiriti indomiti dei suoi antenati, ma egli chiede di essere rimproverato se dà prova di caparbietà e se ciò non servisse di essere punito poiché crede che allora servirà. Comunque si dovrà ben sapere come trattarlo. Il sottoscritto ritiene di potersi tirar d'impaccio in ogni occasione. Egli è indifferente che cosa gli sarà ordinato di fare. È fermamente convinto che ogni lavoro eseguito con diligenza sarà per lui un maggior onore che non il restarsene seduto, ozioso e pavido, accanto alla stufa di casa. Un von Gunten non sta seduto accanto alla stufa. Se gli avi del qui rispettosamente sottoscritto hanno cinto la spada cavalleresca, il loro discendente non fa che attenersi alla tradizione allorché ardentissimamente brama di rendersi utile in qualche modo. La sua modestia non ha limiti una volta che si stimoli il suo valore e il suo zelo nel servire uguaglia la sua ambizione che gli comanda di disprezzare l'ingombrante e pernicioso senso dell'onore. Il ripetuto sottoscritto ha picchiato a tutto spiano il rispettabile dottor Merz, suo insegnante privato di storia, commettendo una scelleratezza di cui si duole. Oggi è suo desiderio di poter infrangere l'orgoglio e l'albagia forse ancora non del tutto spenti in lui contro l'incrollabile scoglio di un duro lavoro. È parco di parole e non riferirà mai le confidenze che gli vengono fatte. Non crede né al regno dei cieli né all'inferno. La soddisfazione di chi lo assumerà sarà per lui il paradiso, il suo triste contrario l'inferno distruttore. Ma egli è certo che si sarà contenti di lui e delle sue prestazioni. Tale ferma certezza gli dà il coraggio di essere quello che è. Jacob von Gunten. Ho consegnato il curriculum al signor direttore. Lo ha letto da capo a fondo, direi anche due volte, e sembra che gli sia piaciuto, perché sulle sue labbra è apparso come il guizzo di un sorriso. Oh, di certo l'ho ben osservato il mio uomo. Ha sorriso leggermente, questo è un dato di fatto. Dunque, finalmente, un segno di qualcosa di umano. Però, che capriole bisogna fare per ottenere un sia pur fuggevolissimo moto di simpatia da parte di persone a cui si sarebbe pronti a baciare le mani? Apposta ho scritto la storia della mia vita in modo così arrogante. Toh, leggi! Come? Non ti viene voglia di sbattermelo in faccia? Questi erano i miei pensieri. E lui ha sorriso così astutamente, così finemente, quell'astuto e fine signor direttore, quell'uomo che purtroppo, venero sopra ogni cosa. E io me ne sono accorto. È una scaramuccia d'avanguardia vinta. Oggi devo assolutamente commettere qualche altra mancanza. Morirei di gioia, altrimenti morirei dal ridere. Ma la signorina direttrice piange? Come mai? Perché mi sento così stranamente felice? Sono ammattito? Devo ora parlare di una cosa che forse susciterà qualche dubbio. Eppure quello che sto per dire è verità assoluta. In questa gigantesca città vive un mio fratello, l'unico fratello che ho. Un uomo straordinario, a mio avviso. Si chiama Johann ed è quel che si dice un artista di nome. Sulla sua attuale posizione nel mondo non so niente di preciso perché ho evitato di andare a fargli visita e non ci andrò. Se ci incontreremo casualmente per strada e lui mi riconoscerà e mi si farà incontro, bene, allora sarò felice di stringere con energia la sua mano fraterna, ma mai e poi mai sarò io a provocare tale incontro. Che cosa sono io e che cos'è lui? Che cosa sia un alunno dell'Istituto Beniamenta, questo lo so, è chiaro come il sole. Un simile alunno non è altro che un bello zero tondo. Ma quello che è attualmente mio fratello, io non posso saperlo. Forse si circonda di una quantità di gente fine e colta, di chissà quali formalità, e poiché io ho rispetto per le formalità, non vado in cerca di un fratello per rischiare di trovarmi di fronte un signore distintissimo che mi sorride a stento, tanto più che Johann von Gunten lo conosco da un pezzo. È un tipo di freddo calcolatore e valutatore, esattamente come me e come tutti i von Gunten, ma è molto più anziano di me. E nella differenza d'età fra due uomini e due fratelli possono celarsi delle barriere insormontabili. Ad ogni modo, non sopporterei che mi desse dei buoni ammaestramenti, ed è invece proprio quello che temo farebbe se gli capitassi davanti, perché al vedermi così misero e insignificante, certamente lui, nella sua brillante posizione, si sentirebbe tentato di farmi un po' sentire dall'alto in basso la mia condizione umile. E questo non potrei sopportarlo. Tirerei fuori tutto l'orgoglio dei von Gunten e lo tratterei in modo decisamente villano, cosa di cui poi non potrei che dolermi. No, mille volte no. Ma come? Accettare le grazie di mio fratello, del mio proprio sangue? Mi dispiace, ma è impossibile. Me lo figuro molto elegante, in atto di fumare la miglior sigaretta del mondo, sdraiato sui cuscini e i tappeti come si conviene a un borghese benestante. E con ciò? Sì, in me c'è adesso qualcosa di così antiborghese, di così profondamente opposto alla distinzione, mentre forse il mio signor fratello giace in mezzo a quanto la mondanità ha di più bello, di più opulento. È deciso. Noi due non ci incontreremo, forse non ci vedremo più. E poi, non ce n'è nessun bisogno. Nessun bisogno? Via, lasciamo andare. Scemo che sono. Sto parlando in prima persona plurale, neanche fossi un intero e rispettabilissimo corpo di professori. Di sicuro, mio fratello vive circondato dal migliore, dal più scelto ambiente salottiero. Merci. Oh, mille grazie. Ci saranno delle signore che faranno capolino dalla porta e chiederanno con aria sdegnosetta: «Si può sapere chi c'è? Eh? Qualche mendicante?» Grazie di tutto cuore per una simile accoglienza. Non sono tipo da farmi compatire io. La stanza piena di fiori profumati. Oh, a me non piacciono i fiori. E quel fare distaccato del gran mondo? Oibò, sì, davvero sarei tanto contento di vederlo, ma se lo vedessi così, se lo vedessi tra quello sfarzo e quegli agi, potrei credere a tutto fuorché di vedere un mio fratello. E non farei che fingere gioia, e altrettanto farebbe lui. Niente dunque. Durante le lezioni noi scolari stiamo seduti con lo sguardo fisso in avanti, immobili. Non è nemmeno permesso, credo, soffiarsi il rispettivo naso. Le mani posano sulle articolazioni delle ginocchia e restano invisibili per tutta la durata della lezione. Le mani sono la prova a cinque dita della vanità e della cupidigia umana, perciò è bene che se ne stiano nascoste sotto la tavola. I nostri nasi di scolari sono tutti spiritualmente rassomiglianti. Tutti sembrano tendere più o meno verso l'alto, là dove aleggia la visione consapevole della confusione propria della vita. I nasi degli alunni dovrebbero essere camusi e rincagnati, così prescrivono i regolamenti che tutto prevedono. E in realtà l'intero consesso dei nostri strumenti olfattivi presenta un profilo umile e pudibondo, come mozzato da affilati coltelli. I nostri occhi contemplano sempre un vuoto riempito di pensieri, e anche questo è conforme al regolamento. Per vero dire, bisognerebbe non aver occhi affatto, perché gli occhi sono sfacciati e curiosi. E la sfacciataggine e la curiosità sono, quasi sotto ogni sano rispetto, degne di condanna. Piuttosto divertenti da osservare sono poi gli orecchi di noi allievi. Sono così tesi nello sforzo d'udire che osano appena ascoltare. Sussultano sempre un po', quasi temessero che una mano ammonitrice li afferrasse da dietro e li tirasse in lungo e in largo. Poveri orecchi! Sempre in preda a una tale paura. Quando il suono di un richiamo o di un ordine li colpisce, si mettono a vibrare e a tremare come arpe percosse e turbate. Ogni tanto, si sa, gli orecchi degli scolari tendono a sonnecchiare un pochino, e come si risvegliano allora? C'è proprio da spassarsela. La cosa meglio educata in noi è però la bocca, sempre docilmente e devotamente cucita. Innegabilmente, una bocca aperta costituisce la sbadigliante documentazione che il suo possessore si trattiene coi suoi pensierucci per lo più in tutt'altri luoghi che non nel regno e nel giardino dell'attenzione. Una bocca ben chiusa indica orecchi aperti e tesi. E per questo è necessario che le entrate inferiori, lì sotto le finestre delle narici, siano sempre accuratamente sprangate. Una porta aperta è un grugno e nient'altro, e ciascuno di noi lo sa benissimo. Le labbra non devono gonfiarsi e lussureggiare nella comoda posizione naturale, bensì essere rintuzzate e serrate in segno di energica e intenta rinuncia. E tutti noi scolari facciamo così, tutti, conforme al regolamento, imprimiamo alle nostre labbra un atteggiamento duro e feroce, e per questo motivo abbiamo tutti un cipiglio da marescialli istruttori di reclute. Un sottufficiale, come ben si sa, vuole che le facce dei suoi uomini siano ingrugnate e accigliate come la sua. È questo che gli sta bene, dato che di solito ha un fondo di umorismo. Parlando sul serio, quelli che ubbidiscono sono per lo più la copia perfetta di quelli che comandano. Un servo non può far altro che appropriarsi delle espressioni e dei modi di fare del suo padrone per tramandarli, diciamo, nella loro schiettezza. Certamente la nostra venerata signorina non è paragonabile in alcun modo a un sergente, anzi, sorride molto spesso, si concede a volte il piacere di ridere di gusto alle spalle di noi uomini marmotte, proni ai regolamenti, ma nello stesso tempo bada bene che la lasciamo ridere in pace e rimanendo impassibili, e noi la assecondiamo. Facciamo finta di non udire nemmeno il suono dolce e argentino della sua risata. Che razza di buffi tipi siamo mai! I nostri capelli sono sempre lucidi, ben pettinati e spazzolati, e ciascuno di noi deve incidersi lassù nel mondo, in cima alla testa, una scriminatura ben dritta, un canale che spartisca in due la nerissima o bionda terra della sua chioma. Così va fatto. Anche le scriminature devono essere conformi al regolamento, e perciò per queste nostre elegantissime pettinature e scriminature sembriamo davvero tutti uno uguale all'altro. Una cosa, per esempio, che se uno scrittore venisse a visitarci e a studiare la nostra prestanza e pochezza, lo farebbe morire dal ridere. No, no, rimanga pure a casa questo signor scrittore. Tutti perditempo, costoro che vogliono solo studiare, dipingere e allineare osservazioni. Basta vivere e si ha da osservare a volontà. Vorrei vedere del resto come la signorina Beniamenta accoglierebbe uno di questi scribacchini che piovesse o cascasse o comunque si presentasse qui dentro. Lo alzerebbe di peso in modo tale da farlo andar lungo e disteso per terra dallo spavento. Già, e allora la nostra maestra, a cui piace mostrarsi in atteggiamento sovrano, probabilmente ci direbbe: presto, aiutate il signore ad alzarsi da terra. E noi, allievi dell'Istituto Beniamenta, indicheremmo all'ospite indesiderato la porta, e quel campione della pettegola consorteria letteraria se ne andrebbe da dove era venuto. Via fantasie. A trovarci vengono dei signori che desiderano assumere noi ragazzi, non gente con la penna dietro l'orecchio.